Scuola in controluce. È partito fra mille polemiche con il rischio di essere sepolto dai ricorsi. È comunque partito l'iter dell'ormai famoso concorsone per aspiranti insegnanti. Da sabato infatti è possibile iscriversi al bando, un'iscrizione che come sapete può avvenire solo online attraverso il sistema Polis messo a disposizione sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione. C'è tempo un mese fino alle ore 14 del 7 novembre. Ma sentiamo come sono andati questi primi due giorni e lo facciamo con la nostra prima ospite. Si tratta di Lucrezia Stellacci, capo dipartimento per l'istruzione al Ministero della Pubblica Istruzione. Buongiorno Stellacci. Buongiorno. Allora, come sono andati questi primi due giorni? Quante domande sono arrivate? Ho il monitoraggio alle ore 13, praticamente quasi mezz'ora fa. Le domande inserite 15.374, quelle inoltrate 7.344. La differenza è che spesso attendono di inoltrarle, di dare l'ok per l'inoltro definitivo, però sono già complete nel sistema. Perché? Aspettano per un controllo finale? Sì, per un controllo finale, perché temono che ci siano variazioni nel frattempo, fino agli ultimi giorni della scadenza, che venga a loro qualche idea in testa nuova. Qualcosa da aggiungere. Qualche servizio in più. Quindi loro le inseriscono, però l'inoltro non lo danno che gli ultimi giorni. Ecco, quante ve ne aspettate in totale fino al 7 novembre? Avete fatto una stima? Noi ce ne aspettiamo 160.000, ma visti questi primi numeri io penso che saranno anche molti di più. Sì, perché saremo già al 10% praticamente. Sì. Senta, il sistema ha retto, insomma, questa ondata di richieste? Sì, il sistema ha retto, diciamolo forte, il sistema ha retto. Va bene, speriamo allora che regga anche nei prossimi giorni. Resti con noi Stellacci, dottoressa Stellacci, perché migliaia sono dunque le domande arrivate, migliaia però rischiano di essere anche i ricorsi di quanti sono stati esclusi da questa selezione. Fra questi i docenti già di ruolo, i laureati quadriennali dopo l'anno accademico 2001-2002 o quinquennali dopo l'anno accademico 2003-2004 e gli ammessi ai TFA, i famosi tirocini annuali che abilitano all'insegnamento e che sono decollati quest'estate. Per loro niente concorso, a meno che i giudici non diano loro ragione. Fra chi ha già prenotato un ricorso c'è Andrea Messina, che lavora e vive a Palermo. Sentiamo la sua storia. Allora, io ho 34 anni, li compierò tra poco. Ho deciso di partecipare al ricorso per il concorso a cattedra per un semplice motivo. Io mi sono laureato nell'anno accademico 2002-2003. Marzo, quindi per tre mesi sarei escluso dalla possibilità di partecipare al concorso a cattedra. Questa è, diciamo, la motivazione giuridica, burocratica, ma alle spalle ci sta anche tutto quello che è il mio curriculum, perché io comunque da quando mi sono laureato ho fatto tre anni di assegno di ricerca, tre anni di dottorato, anni di assegni di ricerca e quindi anche anni di insegnamento all'università. Allo stato attuale sono professore a contratto sia per un corso di laurea che per un master universitario di secondo livello, e in più ho esperienza di insegnamento nelle scuole per aver fatto una quindicina tra POM e POR. Quindi assolutamente mi sento in grado di poter affrontare un percorso lavorativo all'interno dell'insegnamento e non capisco perché dovrei essere escluso solo per tre mesi di corso di laurea. Io tra l'altro mi sono iscritto all'università nel 98-99, quindi per me sarebbe stato praticamente quasi impossibile laurearmi entro i termini che bandisce il concorso, perché io mi sono laureato appena tre mesi fuori corso. Eccolo qua Andrea Messina, così come tanti altri, dunque non ci sta, questo concorso lo vorrebbe fare. Stellacci, è giusto escludere persone come Messina, come il giovane che abbiamo ascoltato? Ma non siamo noi che lo escludiamo, sono le leggi, noi dobbiamo applicare le leggi e la legge parla di laurea presa nel 2001-2002 o 2002-2003 nel caso in cui i corsi sono quinquennali. Io chiederei al professore, ma perché in tutti questi anni non si è abilitato? Solo il 2008 sono state chiuse le SIS, prima ci si poteva abilitare. Quindi aveva questa opportunità. Stellacci, ma c'è il rischio secondo voi che questo concorso naufraghi sotto i colpi dei ricorsi? Non sarebbe la prima volta, tanto più in materia di scuola, eh? Ci avete pensato? Ah certo, ci abbiamo pensato e ormai ci abbiamo fatto anche il callo, cioè siamo a rischio, ma questo non significa che dobbiamo fermarci, altrimenti l'amministrazione non assolverebbe più la sua funzione. Noi andiamo avanti e poi vedremo cosa ne diranno i magistrati. Va bene. Ecco, chi invece spera proprio che non naufraghi questo concorso è Roger Abravanel, autore di Meritocrazia, che salutiamo. Quale insegnante preferireste per vostro figlio? Aveva chiesto dalle pagine del Corriere della Sera. Una signora 45enne, oggi al numero 152 della graduatoria di un concorso di 10 anni fa, o una giovane trentenne fra i primi al concorso di questi giorni? La risposta è ovvia, anche se il suo intervento a Bravanella ha suscitato così tante polemiche che lei non si è potuto fermare lì. No, ho avuto diverse polemiche, ho avuto anche molti commenti positivi. Le polemiche fondamentalmente erano di due generi. Beh, intanto che cosa c'era dietro alla mia domanda è abbastanza chiaro. Il fatto che io sostengo che bisogna cominciare a stare un po' dalla parte degli studenti e non solo degli insegnanti, no? E siccome al di là dell'età, perché ci sono anche degli insegnanti di 50 anni bravissime, no? Quindi non è, ma il vero punto è quello di dire una persona che è stata selezionata più recentemente, no? Rispetto a 10 anni fa, è probabile che sia più una garanzia di qualità, no? Il problema è questo. Primo, c'è un problema che c'è una natura nostra che si rifiuta l'idea della concorrenza e della selezione. E secondo, quello che dicono molti di questi precari, che hanno ragione, no? Dice, guarda, noi siamo stati selezionati 10 anni fa, è vero, non c'è stato il concorso, la colpa non è loro, la colpa è che in questo paese dove si fanno le leggi non si rispettano, per 10 anni non si sono fatti concorso. Però non si può rimanere in una situazione in cui chi è selezionato per la cosa più importante, che è insegnare ai nostri figli, non debba essere selezionato. Nelle migliori scuole del mondo le selezioni sono durissime, vanno i migliori laureati dell'anno, sì, in Finlandia, in Hong Kong, in Giappone, in Canada, c'è una selezione durissima, solo che quest'idea della selezione, del doversi mettere in concorrenza, a noi non piace. Sti poveri precari hanno ragione, non hanno torto, sono lì da 10 anni, non è colpa loro, non è mica colpa loro. Ma non è neanche colpa di questo governo, che peraltro non sta facendo nulla sotto mille altre cose. Bisogna cominciare, e ne ha fatto un percorso graduale, non li ha fatti tutti e 24.000, ne ha fatti solo 12.000. Questa rivoluzione è molto sintomatica, guardi, è simbolica del fatto che nella nostra scuola non si accetta il fatto che ci debba essere un po' di meritocrazia. Guardi, certo, lei ha individuato una sorta di triplice, no, responsabilità. Chi sono i responsabili di questa scassata situazione? Guardi, oggi noi siamo in una situazione in cui la nostra scuola è incredibilmente ineguale. Al nord è accettabile anche se non eccellente, al sud a livello dell'Uruguay e in altre lande, penalizza gli studenti e i giovani del sud. Il problema è che si è creata un'alleanza fra i genitori, in particolare quelli del sud, gli insegnanti e i sindacati. E chi si deve risvegliare sono i genitori, perché non capiscono che semplicemente chiedere dei buoni voti e tenere i figli a scuola il più lungo possibile sta creando un danno ai loro stessi figli, gli uccide le pari opportunità. L'altra posizione che c'era stata era stato su questo concetto dei test, perché dicono è inaccettabile che si valutino studenti e insegnanti su questi standard nazionali e non nazionistici che non riconoscono il valore della cultura classica. Qualcuno diceva che sono motivati dal desiderio della società classista. Allora guardi, qui c'è di mezzo una malcomprensione ancora profonda. Io ho scritto 5 anni fa di questi test non sono qui, a parte che alcuni stanno facendo molto male, molti di questi test sono fatti male, ma invece gli invalsi sono fatti abbastanza bene. Oggi il mondo del lavoro e la società è cambiato rispetto a 50 anni fa. Che cosa si chiede a un giovane? Si chiede di ragionare con la propria testa, saper risolvere problemi, saper leggere, capire quello che legge, saper leggere grafici, si chiamano competenze della vita. Questi famosi test servono per capire la capacità di ragionare, un po' come il dettato di una volta, capisce? Oggi però si rimane dietro col fatto che come si fa a testare la cultura classica. In conclusione, Abravanel, insomma, questo concorso ci voleva? È una goccia. Quello che bisogna fare è veramente fare la valutazione degli insegnanti e dei presidi, soprattutto delle scuole. Grazie mille per questo intervento. E noi torniamo invece alla nostra ospite del Ministero della Pubblica Istruzione, Lucrezia Stellacci. Stellacci, quando si comincerà, come chiede Abravanel, a valutare anche insegnanti e presidi? Presto. Certo, infatti è già stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il regolamento sul sistema nazionale di valutazione, fra qualche mese sarà legge, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dal 1° settembre del prossimo anno si valuteranno le scuole e i dirigenti scolastici. Noi già cominciamo in via sperimentale subito con i neodirigenti, quelli di 850 dirigenti scolastici di nuova nomina a seguito del sfortunato concorso dei dirigenti scolastici. Un altro concorso che ha avuto una strada piuttosto travagliata, travagliata, lo dicevamo prima. Però vede, come vede, abbiamo tenuto duro e siamo arrivati fino in fondo. Certo. Grazie a Lucrezia Stellacci, capo dipartimento per l'istruzione al Ministero della Pubblica Istruzione. Dunque, ci ha parlato di ben 15.374 domande arrivate già nei primi due giorni per partecipare al concorsone. Vi segnalo in chiusura che è disponibile su App Store il nuovo numero di La Vita Nova, il magazine digitale del Sole 24 Ore, che propone un viaggio nelle aule dell'era digitale, dove si sperimentano le nuove tecnologie che stanno plasmando un modo nuovo davvero di fare scuola. Il magazine può essere scaricato gratuitamente, questo è molto importante. Vi ricordo anche che questa puntata di Scuola in Controluce potete riascoltarla cliccando su radio24.it e sulla pagina di Scuola in Controluce. Io vi saluto, ci risentiamo con Scuola in Controluce lunedì prossimo, domani invece alle 13.30 Italia in Controluce.